Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Primo appuntamento di questo 2017 insieme alla Caritas diocesana di Padova con il direttore Don Luca Facco. Ben ritrovato Don Luca. Buongiorno a tutti, buon anno. Dunque, è stato un anno che è caratterizzato nel suo inizio da molte polemiche per quanto riguarda i migranti, i richiedenti asilo, la questione di Cone, insomma l'abbiamo raccontata anche in altre situazioni. Andando alla caccia anche di notizie e di situazioni buone e positive, mi piace evidenziare quello che è successo appena pochi giorni fa, sabato, in uno di quei centri affollati, troppo affollati, che è l'ex base di San Siro a Bagnoli di Sopra. Vuoi raccontarci cosa è successo? C'è anche una interessante galleria fotografica che tu hai pubblicato su Facebook. Sì, nasce da un ascolto del territorio, nel senso che come Caritas, come diocesi, siamo andati ad ascoltare il sindaco di Agna che ci ha segnalato alcune situazioni di difficoltà che stavano vivendo, in particolare la questione di alcuni furti di bicicletta e il problema legato alla mancanza di giubbotti catarifrangenti, per cui la sera sono i ragazzi che andavano in bicicletta erano pochi visibili, i ragazzi delle basi erano poco visibili, con il rischio di pericolo per se stessi e per la cittadinanza. Allora da lì abbiamo preso un accordo con la cooperativa di creare una raccolta di biciclette a livello diocesano e di catarifrangenti da destinare ai ragazzi in modo da dare un segnale positivo alla cittadinanza e a tutto quel territorio che è particolarmente colpito da una presenza così grossa di due basi militari con circa 2.000 persone presenti in tutto quel territorio. Esatto, contando quindi Bagnoli e Cona. E Cona, per cui nasce come desiderio di dare un messaggio positivo al territorio che è particolarmente colpito. Iniziativa Don Luca che però non nasce in questi giorni così frenetici e ricchi di cronaca, ma nasce prima. No. Nasce molto, molto prima, si è concretizzata in questo periodo subito dopo le feste di Natale. Certo che è successo in un periodo particolarmente caldo nelle cronache locali. Poi il positivo è stato che i ragazzi delle basi hanno trasformato questa occasione, che per noi era dare un messaggio alla cittadinanza e dare soprattutto l'occasione di un incontro tra la cittadinanza e i ragazzi accolti, perché nessuno aveva mai avuto l'occasione di entrare dentro la base. C'è stata la disponibilità della cooperativa e della prefettura di accettare il nostro desiderio di entrare e portare questi o le biciclette o i catarifrangenti dentro la base, e da lì è nato un incontro tra la cittadinanza e i ragazzi. I ragazzi sono stati meravigliosi perché hanno colto questa occasione per ringraziare la cittadinanza che per cui è nata proprio questa festa, per cui organizzata tutta dai ragazzi accolti nella base di San Siro, attraverso musica, attraverso danze, attraverso la testimonianza di una squadra di calcio nata all'interno della base, attraverso alcuni cibi etnici, per cui i ragazzi l'hanno trasformato in un'occasione per dire grazie alla cittadinanza che li sta accogliendo. Tra le foto che tu hai pubblicato ce n'è una interessante, meriterebbe un approfondimento molto lungo, ma facciamo solo un cenno, un cartellone in cui appunto spiegano queste persone perché sono qui, quali sono le loro aspettative e quali sono i pregiudizi, perché i pregiudizi magari ci sono da una parte e dall'altra, no? Sì, hanno fatto tutto i ragazzi, per noi è stata una bellissima occasione, perché appena entrati ci siamo trovati di fronte a questo cartellone preparato da loro, con scritto proprio all'inizio siete benvenuti, e in poche parole sono riusciti proprio a dire tanti pregiudizi sia da parte nostra, che loro percepiscono da parte nostra nei loro confronti, ma anche i pregiudizi che loro hanno nei nostri confronti, per cui hanno proprio dato voce a questo tema dei pregiudizi. E poi hanno dato voce da dove arrivano. Lì c'era anche un tavolo dove con alcuni di loro si poteva anche dialogare da dove arrivano, perché arrivano, qual era il viaggio che hanno fatto, per cui è stata un'occasione anche di conoscere e ascoltare alcune delle loro storie. Ci sono due pregiudizi che mi colpiscono particolarmente. Da una parte loro pensano che tutti i bianchi sono cattivi, dall'altra parte noi pensiamo che tutti i neri sono violenti, o ancora noi pensiamo che tutti i neri sono poveri e loro pensano che tutti gli italiani sono ricchi. A te qual è che ha colpito? Guarda, a me colpisce che i pregiudizi tutti li abbiamo, in un modo o nell'altro tutti siamo pieni di pregiudizi. L'unico modo per riuscire ad abbattere i pregiudizi non è fare tanti discorsi, ma è poi nella realtà incontrare una persona, una storia. L'unico modo per abbattere i pregiudizi è incontrare, e credo che questa festa sia stata l'occasione per abbattere almeno uno di questi pregiudizi. Intanto i ragazzi accolti non sono tutti uguali, gli africani non sono tutti uguali, loro lo dicono molto bene, bisogna distinguere a uno, ognuno ha una storia, ha una nazione, ha una cultura che è molto diversa, ecco, quindi imparare proprio a non fare tutto un erbo un fascio, ma saper distinguere che ogni persona, ognuna è diversa dall'altra. Ecco, vista dal loro punto di vista l'Europa potrebbe essere un unico paese, invece insomma c'è differenza tra un italiano e un francese o con uno svedese e un tedesco, è un po' la stessa cosa, no? Così è lo stesso è per loro, anche loro arrivano da storie, da nazioni, da culture, pur essendo in Africa assai diverse l'una dall'altra. Quello che più ci sta a cuore è che da noi, per noi questa festa è sì un'occasione di incontro, ma anche un'occasione per dire che non condividiamo questa modalità di accogliere in Veneto i richiedenti asilo in queste grandi basi. Per cui ci auguriamo che la politica regionale e gli amministratori locali siano capaci insieme in Veneto di dare una regola che sia uguale per tutto il territorio veneto, in cui evitiamo queste grandi concentrazioni, chiudiamo queste grandi basi, e favoriamo invece le microaccoglienze attraverso la regola 2, massimo 3 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti. Noi vogliamo proprio con tutto il cuore, desideriamo che la politica regionale e i sindaci in accordo tra di loro diano questa regola, in modo da chiudere queste grandi concentrazioni che sono un problema sia per il territorio che li accoglie, ma anche per i ragazzi stessi, che sono di difficile gestione queste grandi basi. Grazie Don Luca, alla prossima. Buon lavoro e buona giornata a tutti voi. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.